Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Gli ascoltatori del cacciatore di libri sanno benissimo che c'è una domanda che io non faccio mai agli scrittori, cioè se un libro è autobiografico, perché lo sappiamo, ogni scrittore mette sempre qualcosa di sé nei romanzi che scrive. In questo caso però è una domanda, come dire, alla quale non si può fuggire. In realtà è una domanda alla quale l'autore dà una risposta proprio nelle pagine del suo libro. È evidente che questo è un memoir, ma nello stesso tempo è un romanzo generazionale, è un romanzo che si riferisce a tutta quella generazione di persone che sono stati, diciamo, ragazzi, adolescenti negli anni Ottanta. Il libro si intitola Gli ultimi ragazzi del secolo, l'ha scritto Alessandro Bertante, pubblicato da Giunti. Alessandro, io ho detto appunto che è evidente che si tratta di un memoir perché tu parli in prima persona, tu ti chiami Alessandro Bertante, parli della tua famiglia. La cosa che mi ha colpito molto di questo romanzo è come io e te in fondo siamo coetanei. Però il fatto, per esempio, di essere io nata e vissuta in quel periodo a Bari e tu a Milano ne fa una distanza anche sociale notevole. Ci sono delle cose che io non ho vissuto, forse anche per il contesto che ho frequentato. Ma andiamo per ordine. Inizi così a narrare all'inizio della tua famiglia, no? Mi colpisce molto questo trasloco che è simbolico, da una casa gioiosa, piena di luci, anche un po' fricchettona, diciamo, da figli degli anni 70, ad una casa buia nei primi anni 80. Quello è il tuo passaggio simbolico. A cosa rappresenta? Innanzitutto la casa buia era a 200 metri da qua, infatti sono tornato al mio vecchio quartiere. Dalla sede di Radio 24. Dalla sede di Radio 24 in Piazzale Lotto. Io sono un ragazzo nato e cresciuto in Piazzale Lotto, quindi mi fa sempre effetto tornare qui perché poi non ci ho più abitato, sono più abitato in altre zone di Milano. Quello fu un passaggio dalla casa gioiosa all'ultimo piano con un grandissimo terrazzo e quindi con una grandissima luce, alla casa piano terra però più ricca come casa, più borghese. Fu un passaggio traumatico per me e per la mia famiglia, perché quella che sembrò al cavallo degli anni 70-80, esattamente nell'80, ci trasferiamo lì, una conquista sociale, si rivelò invece in una tristezza anche familiare senza confini, e che però ebbe anche una corrispondenza sociale con Milano e col resto d'Italia, perché quelli furono gli anni del riflusso e la mia famiglia movimentista, comunista eccetera, si scoprò una famiglia piccolo borghese come tutte le altre, che guardava la televisione, esatto. Che insomma e fu però fulmineo questo cambiamento, non fu progressivo per niente, avvenne con quella che nel romanzo definisco come una sorta di premeditazione, insomma, e tutto cambiò la nostra vita nel quotidiano, cambiò la nostra estetica, i nostri simboli anche che ci rappresentavano, e io iniziai quella che fu la mia tormentatissima adolescenza, ecco. Tu non sei uno scrittore certo di primo pelo, perché hai scritto altri libri, altri romanzi, eppure qui ti sei veramente messo a nudo, anche raccontando poi storie di droga, la droga della Milano degli anni Ottanta, prima le droghe cosiddette leggere, poi l'eroina, i morti per eroina, eccetera. Hai avuto la sensazione di esserti messo un pochino troppo allo scoperto, o è un'esigenza che proprio sentivi? Sentivo prima nella tua introduzione anche dicevi che questo memoir, romanzo autobiografico, assolutamente sì. E già però la contraddizione sta nel termine romanzo autobiografico, una contraddizione bellissima, certo, secondo me, perché se la biografia porta immediatamente a un concetto di realtà o di verità, il termine romanzo invece ci porta assolutamente dentro il campo della finzione. Quindi nel termine romanzo autobiografico mi sento molto ben rappresentato. Ci ho detto, io avevo un conto in sospeso con gli anni Ottanta. Questo conto in sospeso si poteva intuire anche in altri miei libri, soprattutto nel penultimo, Estate crudele, ma non avevo mai avuto il coraggio di affrontarlo a viso aperto. Ho deciso di affrontarlo nel modo più traumatico possibile e che fosse anche più potente possibile, quindi in prima persona, con me come protagonista del romanzo. E con le contraddizioni che hai vissuto in quegli anni, perché emergono chiaramente anche la tua voglia di essere magari diverso dai tuoi coetanei, la tua voglia di sperimentare qualcosa di proibito, l'illegalità. Certo. Ecco. Assolutamente. Beh, innanzitutto io avevo voglia di pericolo, perché non c'è niente di affascinante del pericolo per un ragazzo di 14-15 anni, e per trovarlo feci quello che fanno tutti, attraversai la circonvallazione esterna, che a Milano divide quartieri diciamo tranquilli e piccolo borghesi dai quartieri un po' più turbolenti. Io invece di rimanermene in centro come facevano tutti, me ne andavo. Hai fatto il percorso contrario dei paninari. Esatto. Insomma, loro andavano in centro e esatto, tu noi andammo a Cutiotto, che è un quartiere di Milano, ricordiamolo. Sì, esatto. Periferico. amico. Infatti tu a un certo punto scrivi nel romanzo: più di altri ragazzi sentivo il bisogno di sbagliare strada e per percorrerla andava bene qualsiasi sostanza. Non erano tempi in cui si andava troppo per il sottile. Il baratro era proprio davanti a me e non mi faceva paura. Ero attratto da ogni forma di devianza, come se questa fosse un destino inevitabile per un ragazzo ribelle. Probabilmente lo era. Sì, perché comunque noi dopo gli anni 70 anche a livello di immaginario avevamo il mito della ribellione e anche per certi versi della droga. Questo c'è stato trasmesso dall'esperienza degli anni 70 fuori di ogni retorica, francamente. E quindi eravamo attratti da ogni tipo di esperienza che non fosse legata al quotidiano, quello forse ciò che rimaneva del decennio precedente. Certo, le città erano plumbe. I primi anni 80 a Milano furono anni molto difficili, molto grigi, nonostante poi la narrazione degli anni 80 che ci hanno regalato con la Milano da bere e che è stata egemone per tanti anni ci dica al contrario, le città erano completamente invase dai tossicodipendenti ed c'era una presenza estetica molto forte anche. Ecco, questo mi ha colpito molto nel tuo romanzo, perché come ti ho detto forse abbiamo la stessa età, una differenza geografica di dove abbiamo passato la nostra adolescenza. Certo, anch'io a Bari li vedevo i tossicodipendenti, gli eroi nomi eccetera, ma dal tuo romanzo emerge proprio come un'immagine forte, costante, presente, quasi totalizzante, cioè come se una parte di Milano fondamentale fosse rappresentata dal tossico. Sì, era una parte integrante del paesaggio dei primi anni Ottanta. Considerate che il numero dei tossicodipendenti raggiunge il suo apice nel 1984, sono dati Istat, è di 300.000, una cifra assurda se ci pensiamo adesso, e quindi in quegli anni abbiamo proprio questa specie di invasione che colpisce un po' tutte le classi sociali. Io sono ancora troppo piccolo per far parte di questa, però i miei amici più grandi ci cascano praticamente tutti, uno dietro l'altro. E tu dici che molti purtroppo sono morti. Sì, molti sono finiti in comunità, molti sono finiti in galera. Perché non se ne parla così tanto? È come se avessimo rimosso questa parte del passato recentissimo. È la grandissima rimozione degli anni Ottanta. Ci piace vedere Jerry Calà, ci piace vedere la Milano da bere, ci piace vedere la musica anni Ottanta. La musica anni Ottanta, l'epopea berlusconiana, perché comunque non dimentichiamoci che nasce negli anni Ottanta. Canale 5 inizia a trasmettere nel 1980, sono delle date proprio anche sì, tu lo racconti simboliche, nel romanzo. Sì, certo, e si parla di quello, invece delle vittime di quella che è stata una generazione falcidiata, attenzione, non solo dall'eroina, perché nella seconda metà degli anni 80 arriva anche l'AIDS e colpisce sempre la stessa categoria di persone. Certo. Fra l'altro io la metto sul ridere sempre quando dico che io nell'85 scoppia diciamo la pandemia, come la chiamavano, l'AIDS, e io ho 16 anni, ovvero entro compiutamente nell'età nella sessuale. Vita sessuale, certo. Ecco, che mentre la generazione precedente aveva avuto l'amore libero, noi abbiamo l'AIDS, che è una malattia fra l'altro molto infida, perché ti porta alla malfidenza. Cioè la prima cosa che fai tu quando hai un possibile partner... Ci facevano un po' il lavaggio partner, del cervello, certo. È indagare il passato del tuo possibile partner. Che poi non vuol dire nulla, nel senso che insomma lo sappiamo che non serve a nulla indagare. Anzi, forse l'AIDS nelle coppie eterosessuali è più diffuso oggi che non negli anni Ottanta. Lo credo anch'io. C'è un altro elemento fondamentale di questo romanzo, lo si capisce già fin dalle prime pagine, cioè... Tu racconti gli anni Ottanta come ricordo della tua vita del passato e il tuo, diciamo, presente del romanzo è un viaggio che fai con un amico, in questo caso nel 95, a metà degli anni 90, nella cosiddetta ex Jugoslavia. Come due ragazzi un po' apparentemente superficiali andate in viaggio così in Croazia e poi andate a Sarajevo come se fosse un luogo di vacanza, ma Sarajevo nel 95 era ben diversa. Sì, poi in realtà è il 96, l'estate del 96, perché è 6 mesi dopo gli accordi di Dayton, che sono del novembre 95, o dicembre, mi ricordo. Quindi è stato il mio lapsus, esatto, in quello. Esatto, il tuo lapsus su quello. Però noi appunto incontriamo, durante una vacanza qualsiasi, come tutte le altre vacanze che avevamo fatto, nell'isola di Kvar, i segni della guerra fra l'altro erano anche praticamente limitati, sì. Altre parti della Croazia erano più martoriate. Beh, incontriamo 3 ragazzi di Sarajevo, di cui uno manca un braccio e ha il volto completamente sfigurato da un colpo di mortaio, e ci dice: andate a Sarajevo, qua non servite a niente, andate a Sarajevo. E noi, come due incoscienti, perché questo fummo, con la panda, con la mia panda marrone, prendiamo il traghetto, sbarchiamo a Spalato o poco più giù e iniziamo la Valle della Neretta, che è splendida e bellissima, ma siamo gli unici occidentali, a parte i soldati, che vanno su quella strada. E quindi incontriamo un viaggio rocambolesco, incontriamo situazioni anche, non dico tragiche, ma sicuramente drammatiche. E arrivando a Sarajevo ci troviamo addirittura col il coprifuoco. E noi non eravamo completamente... non eravamo abituati, insomma, no, erano cose che sentivamo dire. Sentire la parola coprifuoco, solo sentirla già ti crea una situazione di ansia e malumore, e quindi fummo costretti a dormire in casa di questo frate che era capo di una onlus che ci ospitò per questi due giorni. Perché tutti erano stupiti, dice: ma che ci fate qui a Sarajevo a fare i turisti? Esatto. Ma siete impazziti? No, ma più che turisti, noi volevamo vedere. Ma gli altri vi vedevano, certo, come turisti. Assolutamente. Ma la cosa incredibile, che non incredibile, ma significativa, che Sarajevo era una città molto turistica, fu la sede delle Olimpiadi invernali dell'84, eccetera, ma tutte le strutture turistiche ancora in piedi erano quindi ostelli, pensione e via dicendo, erano completamente pieni di profughi che arrivavano da tutto il resto della Bosnia, vittime di pulizia etnica. Quindi anche il nostro fatto di non avere la possibilità di avere un posto a cui dormire era un fatto tragico indirettamente. Certo, perché non c'era veramente un luogo dove essere sicuri. Perché però, Alessandro Bertante, hai voluto mettere insieme questi due piani temporali con questi due fatti importanti? Il 96, con questo viaggio appunto nella Sarajevo distrutta dalla guerra, e gli anni 80 che avevano segnato la tua adolescenza, abbiamo detto la droga e tante altre cose. Perché secondo me gli anni 80 durano più del decennio in quanto tale, quindi dall'80 all'89, ma durano fino almeno alla metà degli anni 90. Quindi quel viaggio lì secondo me era simbolico di una fine, di uno stato di cose, di una fine di un modo di guardare il mondo, e coinvolgeva nel capitolo finale, ne do anche una spiegazione, coinvolgeva gli anni 80 nel suo insieme, anche la vicenda di Sarajevo. Peraltro secondo me la guerra in ex Jugoslavia definisce anche la fine dell'Europa politica in modo secondo me clamoroso, aprendo a quella che è l'Europa finanziaria sostanzialmente, che abbiamo oggi e che vediamo oggi sempre al centro, anche scricchiolare, esatto, vediamo al centro anche delle polemiche politiche nazionali e internazionali. C'è una frase a un certo punto che tu scrivi, che è così decontestualizzata, potrebbe avere mille significati, per questo la cito, perché vorrei che tu la spiegassi agli ascoltatori. Stavi appunto dormendo a Sarajevo in questa, diciamo, sede di organizzazione umanitaria, e dici: non riesco a trovare una ragione che mi spinga ad amare il mio paese. Di questa condanna non me ne vanto. Sì. A cosa ti riferisci? Qual è la condanna che tu fai? La condanna che io ho in quanto Alessandro Bertante nato nel 1969 è quella di vivere un paese che non ho mai stimato, non ho mai apprezzato. Ma in relazione alla guerra in Jugoslavia? No, in relazione proprio al mio paese, perché vivemmo il 1989 carichi di speranze, poi ci fu la stagione, ovviamente speranze riflesse da quello che succedeva nel resto dell'Europa e che a noi francamente toccò pochissimo. Poi la stagione di Mani Pulite anche fu vissuta con grandi speranze, e io nel 1996... con l'io narrante del 1996 ero già esausto dal punto di vista umano per quello che mi aveva, insomma, proposto il mio paese fino a quei giorni. Va detto anche, essendo nato nel 1969, tutta la mia infanzia è stata cadenzata da bombe che esplodevano e che nessuno sapeva il perché negli anni 70. Il terrorismo interno, in quel caso. Il terrorismo interno, esatto. Quindi nel 1996 io mi sentivo francamente figlio di una generazione condannata. Poi ho cambiato in parte idea, in parte, francamente. Grazie ad Alessandro Bertante. Grazie con a voi. Grazie. Gli ultimi ragazzi del secolo, pubblicato da Giunti. Ora una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il cacciatore di libri. È il momento di dare un po' i numeri dell'editoria, questo perché al Salone del Libro di Torino un paio di settimane fa sono stati diffusi i nuovi, gli ultimi dati che riguardano appunto il mercato editoriale italiano e che si riferiscono ai primi 4 mesi del 2016. Allora lo sappiamo, purtroppo negli ultimi 3-4 anni il mercato del libro ha iniziato a vedere il segno meno, cosa che precedentemente non si era mai vista in Italia. Perché il libro è considerato un bene anticiclico, cioè sia che le cose vadano bene sia che le cose vadano male, insomma nel libro non compariva mai il segno meno. Invece questa crisi ha influenzato parecchio il mercato editoriale. Il 2015 aveva chiuso con un timido più 0,7 a valore, cioè come per intenderci come incassi delle case editrici. Come sono andati i primi mesi del 2016? Beh, i dati sono stati elaborati sempre da Nielsen per conto dell'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori. Ci dicono appunto che da gennaio ad aprile, a valore, quindi come incasso, siamo a un più 0,1%, quindi sostanzialmente il mercato è stabile. Ma c'è un paradosso, perché le copie vendute sono diminuite, sempre nello stesso periodo, del 3,4%. Abbiamo venduto meno 800.000 copie rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Allora, come si può spiegare questo apparente paradosso? Beh, un'ipotesi è che, per esempio, da una parte sia aumentato il prezzo di alcuni libri, quindi si comprano meno libri e però vengono pagati di più. Dall'altro potrebbe anche essere che è un po' passata la moda dei libri low cost, quelli che si vendono per esempio a 1 euro, 2 euro, soprattutto i classici con traduzioni spesso fatte in maniera molto, molto approssimativa, e quindi appunto diminuisce il numero di copie vendute perché si comprano libri che costano, come costano sempre in media, sui 15 euro. Ne abbiamo parlato con Federico Motta, che è il presidente dell'AIE. Sentiamo allora lui che cosa ci ha risposto. Nell'analisi credo che non entri fino a questo tipo di approfondimento, direi che dipende da tante cose, dipende senz'altro magari da un prezzo in leggero aumento, e ricordo che però in Italia i libri costano meno che in qualsiasi altro paese d'Europa, e senz'altro dal mix, cioè dalle tipologie di acquisto, possono incidere evidentemente poi sulla componente coppie e sulla componente ricavo. Il tema soprattutto è che, diciamo, i libri a prezzi bassi o a prezzi estremamente bassi hanno, come sempre stato dimostrato, non sono certamente la novità questi ultimi 2-3 anni, hanno sempre dimostrato di avere una vita breve, cioè hanno un momento di crescita quando vengono lanciati, ma poi si esauriscono comunque. Quindi direi che tanto importante l'inversione di tendenza, e secondo cercare di capire e vedere e mantenere. Il tema soprattutto direi che va valutato è che per la prima volta, cioè dal 2010, per la prima volta il libro si è confrontato con la crisi economica. Il libro è sempre stato un prodotto aciclico, non aveva mai subito, né nei momenti positivi ovviamente, ma neppure nei momenti negativi, flessioni o crescite. Direi che per la prima volta gli editori sono trovati a confrontarsi con la crisi economica e quindi a dover cambiare velocemente, adeguarsi a logiche quindi di marketing un po' diverse, e quindi anche far fronte a questa situazione con innovazione che non è solamente tecnologica ma anche proprio di linguaggio, direi, no? Rivolto al mercato. Il segnale positivo, almeno a valore, l'abbiamo visto già verso la fine del 2015, c'è ottimismo appunto in questi primi mesi del 2016, parliamo ancora però insomma di percentuali abbastanza limitate. Lei è fiducioso sul fatto che si possano rafforzare queste percentuali positive? Si rafforzeranno con due condizioni: una, capacità di offerta degli editori, che ovviamente sarà condizionante per il successo, quindi sia di buoni titoli, sia di best seller, sia di elevare la media di vendita dei titoli da una parte. l'altra la crescita economica dei consumi più che del paese, che è l'aspetto fondamentale. Se crescono i consumi come sembra, interni, che come sembra stia avvenendo, credo che ci sarà anche una crescita del nostro mercato. Una cosa che mi ha colpito di questi dati è per esempio che uno degli aspetti più trainanti è la vendita dei manuali, non so, per i concorsi, manuali professionali, eccetera, i libri d'amore e i libri sulla cristianità. Probabilmente c'è anche il fenomeno Papa Francesco che sta trainando parecchio. Lei che analisi fa di questi dati messi insieme? Non so, sono lo specchio della società in questo momento? Beh, in parte sono lo specchio della società, in parte noi in Italia dobbiamo anche cominciare a capire che il mercato non è solo narrativa, il nostro mercato non è potenzialmente adeguato, ma ci dimentichiamo che mancano nel macro risultato alcuni settori che in altri paesi sono fondamentali. Io ricordo sempre la Germania 10 miliardi di ricavi del settore, la metà, cioè 5 miliardi, sono professionali, cioè vuol dire che in Germania investono 5 miliardi, che è più del globale fatturato del settore in Italia, sul professionale. Ecco, quindi noi dobbiamo aumentare tutte le diversità, tutte le tipologie di libri, e dobbiamo riuscire a creare una base forte e ampia che ci permetta poi di coltivare, perché non si può vivere solo sulla narrativa. E questo era Federico Motta, presidente dell'AI, Associazione Italiana Editori, che commentava i dati, gli ultimi dati sul mercato editoriale diffusi un paio di settimane fa e che ci dicono appunto che il mercato è sostanzialmente stabile. Insomma, gli editori sono contenti perché vedono quel più 0,1, però insomma in statistica più 0,1 è piuttosto indice di stabilità e non di positività. Comunque, siamo fiduciosi, vediamo che cosa accadrà in questo 2016. Passiamo alle segnalazioni dei festival, come sempre in questo periodo. Allora, il prossimo appuntamento che vi do è dal 2 al 5 giugno ad Ivrea, dove c'è un festival della letteratura dal nome veramente molto carino, La Grande Invasione. Questo è il quarto anno che si svolge questo festival ed è un festival che riguarda sia la letteratura ma anche per esempio l'arte, il teatro, insomma spazia un po' in vari ambiti della cultura. Vi cito un po' di nomi che saranno presenti in questa edizione: Niccolò Ammaniti, Antonio Manzini con il suo personaggio storico di Rocco Schiavone, poi Michela Murgia, Concita De Gregorio, Goffredo Fofi, Paolo Cognetti, Edoardo Nesi. Fra gli ospiti stranieri vi segnalo, vi consiglio veramente di non perdere, Edgar Keret, uno scrittore israeliano soprattutto di racconti. L'abbiamo anche avuto ospite qui al Cacciatore di Libri, quindi nelle puntate d'archivio potete sicuramente ritrovarlo. Uno scrittore che veramente apprezzo moltissimo, anche se normalmente non vi piacciono i racconti, fate un'eccezione per Edgar Keret. E sempre a proposito di manifestazioni che riguardano i libri, ce n'è una nuova a Milano, nell'ambito del Milano Off Isola Festival. Insomma, chi di Milano sa che l'isola è un quartiere ben preciso di Milano. All'interno di questa manifestazione più vasta c'è Off Libris, dal 2 al 12 giugno, appunto nel quartiere Isola. Che cos'è? È un'idea che ha realizzato la scrittrice Marina Mander. È uno spazio aperto, informale, dedicato ai libri, agli autori, ma anche e soprattutto ai lettori. Allora, che cosa succede dal 2 al 12 giugno a Milano nel quartiere Isola? Nell'ambito di questo programma Off Libris, ogni giorno alle 13:15, quindi in pausa pranzo, viene ospitato uno scrittore in compagnia di un attore o di un lettore. Quindi insomma lo scrittore chiaramente parla del suo libro, gli attori recitano parti del romanzo e con il lettore si può creare naturalmente un dibattito pubblico. Alcuni nomi che saranno presenti, per esempio Alessandro Bertante, di cui abbiamo parlato nella prima parte del programma, il poeta Mario De Santis, la giallista storica Patrizia Tamà. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, per chi vuole una pausa pranzo un po' diversa a Milano. Comunque tutto il programma è su milanooff, quindi con due o.com, potete informarvi sul web. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate come sempre tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Cliccate nella sezione programmi e poi cercate Il Cacciatore di Libri. Come sempre a disposizione il podcast. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.